Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi ci tuffiamo senza remore in un dibattito vecchio come il mondo, ma oggi sempre più attuale. La differenziazione tra cultura popolare, quindi voleri del popolo, delle maggioranze, eccetera, eccetera, e cultura di elite. È un dualismo che non verrà mai superato. E in questo momento forse la massima espressione della cultura popolare moderna è la televisione, che è per antonomasia, forse ancora per poco, ma per ora lo è, il contenitore pluralista. È un mezzo che arriva ovunque, che porta alla gente ogni tipo di contenuti, contenuti che riflettono la cultura generale. Qualcuno dice che l'anticipano e qualcuno dice che la seguono. Uno dei principali successi degli ultimi anni sono stati i talent show, che hanno cambiato la storia della musica. In realtà i primi talent show sono nati in America negli anni 50, però anche in Italia, se vogliamo, abbiamo avuto dei trascorsi di questo genere. Alla fine degli anni 60, per esempio, c'era Sette Voci, che era una specie di talent show condotto dall'allora giovanissimo Pippo Baudo. E il talento si riconosce subito, perché io ho fatto tanti provini in vita mia. Quando vedevo degli artisti, dei cantanti, degli attori, cioè, mi accorgevo subito che c'era qualche cosa di strano, che brillava negli occhi, insomma, qualche cosa che sarebbe venuto fuori. Ma chissà, voglio sperare che sia così, almeno perché venga resa giustizia a tutti i veri talenti, ma insomma mi sembra che in questo momento non stiamo andando in quella direzione. Ma comunque, se parliamo dei talent, non possiamo non parlare di questo signore che è il protagonista della nostra puntata di oggi, Simon Cowell, il creatore di X Factor e di Got Talent. È l'uomo che ha dato comunque un nuovo impulso all'industria discografica, ha scoperto artisti, nuove band come gli One Direction. Oggi vi voglio parlare di come questo signore sia riuscito a diventare uno dei personaggi più influenti della cultura pop. Eh sì, perché in un mondo in cui i dischi si vendono sempre meno, lui è riuscito a mettere a segno una serie notevole di colpi discografici, non da poco. Gli hanno colpi che gli hanno permesso di lanciare cantanti, Leona Lewis, gli One Direction, ne abbiamo parlato prima. Ha accumulato una fortuna personale che dicono viaggi attorno ai 350 milioni di sterline. Guadagna circa 95 milioni all'anno, quindi più di 100 milioni di euro all'anno. Non è male, insomma, per un ragazzo che, come vedremo, andava anche male a scuola. Lui nasce a Londra. Simon Cowell nasce da Eric e Julie, 1959. I suoi genitori hanno altri figli da unioni precedenti e lui è il primogenito di una nuova famiglia. Poi arriverà un altro figlio, Nicholas, e i Cowell sono gente benestante. Vivono fuori Londra in una grande casa con 8 camere da letto, la servitù, la tata e il giardiniere. Il padre è un dirigente della EMI, la casa discografica, e per questa ragione la vita di Simon è costellata da incontri con personaggi famosi, feste dove i bambini si muovono in mezzo ai cantanti, ai produttori, agli attori famosi. Insomma, si muove in un mondo privilegiato e lui rivela subito un carattere molto forte, non si intimidisce di fronte a niente e a nessuno, e spesso per cui si mette nei guai. Yeah, my mom was a disciplinarian. Mia madre credeva nella disciplina e ogni volta che avevo dei brutti voti mi diceva: tuo padre ti sta aspettando nello studio. Ma quando entravo lui mi diceva di non preoccuparmi. Mio padre era un po' come me. Sapeva che non ero uno brillante, ma sapeva che ero un lavoratore ed era una persona comprensiva. Non mi metteva alcuna pressione. Ma mia madre ha sempre insistito che io prendessi buoni voti e cose così. E io non l'ho mai fatto. Quando Simon è ancora un ragazzino, il padre vende la casa a Stanley Kubrick per trasferirsi in una zona ancora più elegante, così per farvi capire. E lui frequenta la classica scuola conservatrice inglese, però la scuola non gli si addice. Well, when I was at school, I was always in trouble for talking too much. Quando ero a scuola avevo sempre problemi perché parlavo troppo. Mi annoiavo in fretta e sapevo che la scuola o il collegio non facevano per me. Ero impaziente, volevo lavorare e quando ero giovane il modo per guadagnare i miei primi soldi fu quello di mettermi a lavare le macchine. Una cosa che amo fare ancora. Quando invece tornavo a scuola, di nuovo mi annoiavo e di nuovo finivo nei guai. I would get into a lot of trouble. Eh sì, e Simon finisce spesso nei guai perché non ama studiare, considera inutili le materie che si fanno in classe, insomma i genitori lo mandano in collegio e lui comincia a mandare lettere ai genitori, lettere dai toni strazianti, solo per farli sentire in colpa. Dear mom and dad, cari mamma e papà, spero che siate felici per esservi finalmente liberati di me. Spero anche che stiate bene nella vostra bella casa riscaldata e che abbiate tanto da mangiare. Io dormo in un dormitorio dove ci sono i ghiaccioli e non ho niente da mangiare. Muoio dal freddo e sono affamato. Spero che vi sentiate finalmente soddisfatti. Simon. I hope you're finally satisfied, Simon. Insomma, la strategia è evidente ed è uno che con le parole ci sa fare, sa cosa vuole e sa come ottenere quello che vuole. Questo gli tornerà molto utile in futuro. Il falco e il gabbiano. Il protagonista di oggi, Simon Cowell, quello che diventerà l'inventore dei talent show, deve trovarsi un lavoro. Non è un'impresa facile, d'altra parte la carriera scolastica è stata terribile, qualcosa bisogna pur fare. Però lui non mostra alcun rispetto per l'autorità, vuol fare le cose di testa sua, quindi non riesce a conquistarsi le simpatie di un datore di lavoro, perché è ancora alle prime armi. Insomma, Simon si guadagna qualche soldo lavando le macchine, tagliando l'erba, facendo il tutto fare sul set di Shining, il film di Stanley Kubrick. Si dice che uno dei suoi compiti sia stato quello di ripulire l'ascia con la quale Jack Nicholson distruggeva la porta che lo separava dalla moglie, no? L'ascia famosa. Ma bisogna sbloccare la situazione. Arriva in suo soccorso il padre, che lo fa entrare alla EMI, alla EMI, la casa discografica. Il legame col padre rimane una costante nella sua vita, ma nonostante il carattere ribelle e volitivo del figlio, il padre non è il tipo che fa valere troppo la sua autorità. È un legame fatto di comprensione, di stima, e tutta la vita lavorativa di Simon Cowell verrà comunque caratterizzata dagli insegnamenti che il padre Eric gli ha trasmesso. Quando ero giovane, mio padre mi ha insegnato una cosa. Gli chiesi come si gestiva una società e lui mi rispose: è molto semplice. Tutti devono sentirsi riconosciuti. Questo li fa sentire importanti. Lo stesso succede in uno spettacolo. Ci sono 150 persone che hanno bisogno di sentirsi giustamente riconosciute per la parte che hanno in esso. Se pensi che dipenda solo da te, ti ritrovi con un sacco di problemi. Sono anni importanti. Lui parte veramente dal basso, ma in realtà lui rimane alla EMI giusto il tempo per capire come gira il mondo della musica e poi trova un socio e fonda la sua casa discografica, la Fanfare. All'inizio le cose forse vanno bene, sono i favolosi anni 80 in fondo, è un mondo meraviglioso fatto di lustrini, il riflusso, no? I vestiti, i tagli di capelli improbabili, le foto del tempo ce lo mostrano con i capelli lunghi, con la riga in mezzo, tipo Nino D'Angelo all'epoca dei film da scugnizzo. Diciamo che tornando indietro, lo stesso Cowell si definisce così: era il classico cliché degli anni Ottanta in carne e ossa. Erano gli anni Ottanta. Le banche ti davano tonnellate di denari da spendere, la borsa andava benissimo, tutti volevamo la Porsche, tutti volevamo le belle case, tutti credevamo nell'esagerazione. E io lo stavo facendo bene. Ma vivevo molto al di sopra dei miei mezzi. Mi facevo prestare i soldi per comprare la Porsche e la bella casa. Uscivo tutte le sere spendendo delle fortune, bevendo e non solo per tutta la notte. Fino a quando non crollò tutto. Al punto che credo dovessi alle banche circa $500,000. E mi sono ritrovato con $5 in tasca, che mi sono bastati giusto per prendere un taxi per tornare a casa dei miei genitori. Tanto era brutta la situazione. That's how bad it was. Insomma, la fanfara, malgrado qualche colpo messo a segno con qualche artista che si piazza nelle classifiche inglesi, fallisce. Troppe spese, troppi soldi che escono con la scusa di mantenere un alto livello di rappresentanza. Nell'89 è bancarotta, lui si trova di nuovo a casa dei genitori e ha già 30 anni. Fece un accordo con le banche per ripagare i debiti. Ci ho messo 3 anni, ma ho restituito tutto fino all'ultimo penny. Ma la cosa più interessante è che non mi è dispiaciuto più di tanto una volta che ho restituito la casa, la Porsche e tutto il resto, perché ora stavo vivendo una vita più onesta. Stavo riniziando da capo e non avrei mai più preso soldi in prestiti. Ma lui non è il tipo che si compatisce, in fondo considera il fallimento come un'esperienza formativa e dopo la parentesi di fanfare torna a lavorare in un'etichetta discografica, stavolta alla BMG come talent scout, e questa volta i risultati arrivano perché lui ha una grande qualità, la lungimiranza. Ormai siamo negli anni 90 e lui comincia a realizzare che qualcosa sta cambiando, che questo cambiamento non avviene nel mondo musicale in senso stretto, non arriva dai piccoli palchi dei club o durante i concerti, arriva dentro alla piccola scatola con uno schermo, arriva da dentro alla TV. Credo di essere stato uno dei primi ad aver intuito la capacità della televisione a vendere dischi e ho iniziato a costruire una zona entro la quale potessi avere successo. E qui si sta creando una inversione di tendenza che personalmente io fatico a perdonargli, perché da quel momento sono sempre meno i discografici che vanno nei locali a cercare le band, a cercare nuovi talenti, e oggi bisogna vendere i dischi, e quindi Cowell ritiene che la TV sia il posto giusto per vendere i dischi. Mette sotto contratto chiunque, non so, i divi del wrestling che in quel periodo diventano famosi, le reti televisive fanno a gara per assicurarsi i loro incontri, quindi lui fa due conti, vede che durante gli spettacoli del wrestling viene venduto di tutto, le magliette, i prodotti per la cura del corpo, e così vende anche i dischi. Il risultato è il Wrestling Album, con le musiche che introducono gli incontri di Hulk Hogan e di tutti gli altri. Le vendite vanno alle stelle, insomma è una scorciatoia che di artistico ha molto poco. E ormai la strada intrapresa è quella, perché poi arrivano le colonne sonore per i Power Rangers, i Teletubbies, insomma la quantità più che la qualità, l'arte diventa qualcosa di inutile, un concetto non elevato, lo spiega molto bene Noel Gallagher degli Oasis parlando di Cowell. Non sta facendo finta che stia a casa ogni sera ad ascoltare i White Stripes. So che c'è tanta gente nel mondo della musica che finge di farlo. E mi viene da dire, ma se ti piacciono quei cazzo di Hall & Oates, ma vaffanculo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di uno dei maggiori burattinai del sistema della musica, dell'arte in generale, degli ultimi anni, ormai decenni. È l'inventore di X Factor, di Got Talent, America Got Talent, England, Italian Got Talent. Stiamo parlando di Simon Cowell. È diventato famoso facendo il giudice antipatico, ma in realtà quello che conta è quello che lui ha fatto dietro alle quinte, uno che si era fatto espellere per insubordinazione, per atteggiamento indisciplinato a scuola, e in realtà si prende la sua rivincita, capisce che non vuole più essere assoggettato alle disposizioni di qualcun altro. Quello che ho compreso fin da giovane è che non volevo vivere nella paura. Per tutti i miei anni di scuola ho vissuto nel timore che se avessi fatto qualcosa di sbagliato sarei stato bastonato, letteralmente. Una cosa che rende abbastanza nervosi. E da allora sono sempre stato spaventato all'idea che potessi avere un lavoro in cui, se ci fossero stati dei problemi, i miei capi avrebbero potuto odiarmi. E se mi avessero odiato, potevano licenziarmi. E così ho pensato che non potevo vivere la mia vita in questo modo. E mi sono sforzato di essere bravo in qualcosa che non contemplava dover avere un capo. In questo modo avrei risposto solo a me stesso e non avrei più vissuto nella paura. questo va bene, però nel frattempo bisogna anche avere delle idee. E lui, che non va tanto per il sottile e che certo non è uno che si preoccupa dell'artisticità di quello che fa, capisce che c'è una forza vendita da sfruttare, che è la televisione. Così escono i dischi dei wrestler, dei Power Rangers, e poi convince due attori di un popolare sceneggiato televisivo inglese, Robson Green e Jerome Flynn, a incidere un vecchio successo degli anni 50, Unchained Melody, e la canzone diventa famosa per il film Ghost. Il pezzo va al numero uno della classifica inglese, e dopo questo successo il duo, che viene ormai ribattezzato Robson e Jerome, mette a segno altri due album e vende 7 milioni di copie. Grazie a loro Simon si mette in tasca il suo primo milioncino di sterline, e non ha ancora 40 anni. L'entusiasmo che Cowell ha per la televisione non passa inosservato. Nel 2001 il produttore Simon Faller, che ha appena creato un format televisivo che si chiama Pop Idol, propone a Simon di diventare uno dei giudici del programma, e si accorgono evidentemente gli addetti ai lavori che quello con il talento maggiore lì dentro è proprio Cowell. Come giudice lui esprime quello che pensa, o comunque esprime i suoi giudizi senza paura. Lo show comincia ad avere un grande successo, lui diventa il giudice più riconoscibile tra i tre che conducono la trasmissione. Diventa famosa la frase con la quale inizia a rivolgersi all'aspirante artista: I don't mean to be rude, but, cioè non voglio essere scortese, ma. E poi parte con le contumelie. E diventa anche il titolo di un libro, questa, I Don't Mean to Be Rude But, un libro scritto a quattro mani con il fratellastro Tony, giornalista. È parecchio scortese, e comunque ha quel gusto british di fare la battuta cattiva che agli inglesi piace e viene rispettato, e che depista gli americani, che si innamorano di questo inglese che non le manda a dire, anzi che gode nel dire cattiveria. Insomma, questo diventa il marchio di fabbrica dello show. Il vero significato dello spettacolo è quello di essere onesti e di non prendere in giro la gente. Gli americani abboccano, perché nel momento in cui uno dice l'importante è essere onesti, poi può fare qualsiasi cosa. Così Fuller e Cowell, forti del successo di Pop Idol, cominciano a vendere il format altrove. Arriva negli Stati Uniti e si chiama American Idol. La prima stagione debutta nel 2002, lui fa parte della giuria statunitense e dice cose devastanti ai malcapitati che gli stanno di fronte in attesa del verdetto, e questo per molti è proprio il suo merito maggiore, perché in un mondo come quello dello spettacolo, lui dice, è inutile farsi illusioni, se non hai la stoffa è meglio saperlo subito. Però è anche vero che non può essere una sola persona, anche se si chiama Simon Cowell, a dirti che tu non hai la stoffa. Però la verità è che questo è un atteggiamento che fa spettacolo. Che tu faccia sport, che tu faccia business o che tu faccia show televisivi come me, nessuno lo fa per arrivare ultimo. Ti sforzi sempre di avere più successo nella competizione. Il giorno che smetti di pensarlo, devi smettere di fare questo genere di lavoro. Devi smettere. Anche quando ero un bambino e giocavo a Monopoli, se non vincevo, mandavo all'aria tutto. Ecco, vedete qual è la perfidia di questa rivoluzione. Il fatto che alla musica venga accostata la parola competizione. Passi che le accostino la parola business, ma nel momento in cui la musica diventa una competizione, perde ulteriormente la sua forza intrinseca. Questo è evidente, ma nel frattempo Simon, che ha fatto, diciamo, dell'arroganza il suo punto di forza, ha dei risultati sempre in crescendo. Si trasforma, lui non è più un dirigente discografico, è un divo della televisione. L'esperienza di American Idol è importante, ma a lui non basta, lui vuole capire come funziona la macchina. Ha capito che i talent sono una miniera d'oro, costruita spesso sulla pelle, insomma, di ragazzi che vengono illusi strada facendo, ma questo non ha importanza. Lui fonda una sua casa discografica che si chiama la Saico, e il primo risultato della casa di discografica e di produzione è la creazione di un nuovo format, X Factor, per la rete televisiva ITV. Un successo planetario. In Gran Bretagna sono alla 13ª edizione, in Italia all'11ª, ma X Factor è un trionfo in tutto il mondo. first week's ratings came in, quando uscirono, gli ascolti della prima settimana erano buoni. Poi la seconda settimana impazzirono e da quel momento lo show fu un successo. Andò tutto bene per 2 o 3 anni, ma senza che uscisse una grandissima star. E ricordo che a un certo punto pensai, se non troviamo un artista che si trasformi in una vera e propria star, saremo costretti a chiudere. E poi arrivò Leona Lewis. And a girl called Leona Lewis came on the show. E lì una svolta ulteriore, perché dalla terza edizione comincia X Factor a macinare talenti un po' in tutto il mondo. E allora lui non si ferma ai cantanti, si inventa anche Got Talent, è uno show che riunisce tutte le categorie dello spettacolo, dal mago alla ballerina, al cantante lirico, fino al cane che si esibisce in un numero improbabile, il prestigiatore, insomma c'è di tutto a Got Talent. And then 3 days before I was due to start filming in the UK. 3 giorni prima di iniziare a registrare nel Regno Unito, la rete tolse letteralmente la spina e mi disse: non faremo lo show, non sarà un successo. Gli dissi: ho 150 persone che stanno aspettando di registrare lo spettacolo. E così mi dissero: ok, ti diamo 24 ore per metterlo su, e se non funziona in 24 ore non lo facciamo più. Grazie. E così sono tornato dentro e non potevo dirlo a nessuno. Abbiamo iniziato e dopo 5 minuti di registrazione ho mandato un messaggio che diceva: ragazzi, non vi preoccupate, sarà un successo. It's a hit, don't worry about it. E anche questa volta ha ragione lui, Got Talent diventa un successo che viene venduto in America e in molti altri paesi. Anche in questo caso, nella terza serie, evidentemente lui ha il numero fortunato, il 3, partecipa un personaggio particolarissimo che fa il giro del mondo, Susan Boyle. È un'aspirante cantante, è matura, è brutta, è insignificante, però apre la bocca per cantare e sconvolge gli spettatori con la sua voce d'angelo. Insomma, la sua performance diventa un fenomeno, soprattutto su YouTube, dove in un giorno l'esibizione diventa virale. I contatti arrivano a milioni, insomma la TV trova un valido alleato e una cassa di risonanza che è la rete. I can remember trying to promote a band in America 15 years ago. Ricordo che 15 anni fa, per promuovere una band in America, ci volevano come minimo tra i 6 e i 9 mesi per ottenere anche un minimo di attenzione. Dovevi passare da una radio all'altra, suonare in 1000 terribili posti, dovevi fare di tutto per farti conoscere. 9 mesi col rischio che non servisse a niente. Oggi puoi diventare virale con una sola canzone o con un video. Susan Boyle, che è apparsa a British Got Talent, ne è un esempio. Sotto i miei occhi in 24 ore è stata vista 50 milioni di volte su internet. In 24 hours go to 50 million hits. Ovviamente ci sono delle cose da dire su questo ragionamento, che in virtù di tutto questo le case discografiche ogni 2 settimane cambiano il cantante sul quale puntare, perché tanto appunto dicono: proviamo, se non va con questo abbiamo un altro mese per provare con un altro. E secondo, ci domandiamo tutti se Susan Boyle tra 30 anni verrà amata come oggi noi amiamo, che so, i Led Zeppelin o David Bowie o Bob Dylan. Ne dubito. Ma torniamo a Cowell. Lui è molto attento al fatto che il mondo stia cambiando, insomma capisce che adesso per promuovere un cantante non serve il lavoro di un talent scout, serve girare la ruota, e la grande ruota che gira è internet. And then I saw something I've never seen before. Ho visto una cosa che non mi era mai successa prima in 35 anni nel business della musica. Adesso sono i fan, non le etichette discografiche, che in tutto il mondo promuovono e fanno marketing per la loro band preferita. Al punto che una volta pubblicammo un album in 3 paesi e diventò numero 1 in 43 paesi simultaneamente. E oggi questa è l'epoca in cui si promuove una band con quello che offre internet. Internet è così potente che può fare il lavoro al posto tuo. It can do your job for you. Insomma, Simon Cowell diventa uno dei maggiori influencer della cultura popolare, e come sempre succede quando si parla di cultura popolare, il mondo si divide in due. Da una parte c'è chi ritiene che Cowell è quello che ha trasformato il pop in una sorta di allevamento intensivo di giovani star destinate a vivere un solo giorno, uno che sfrutta la fame di fama, diciamo, delle ultime generazioni, quelli che credono che l'unico obiettivo sia quello di andare in TV a diventare ricchi e famosi. D'altra parte invece ci sono i suoi fan che vedono in lui la persona che ha saputo creare, non so, una nuova forma di intrattenimento, la chiamiamo così, una formula divertente, super professionale, ha ridato ossigeno alle case discografiche, ha permesso forse anche di investire su altri tipi di artisti, in realtà su altri tipi di artisti sempre dello stesso genere. È anche vero che i suoi show hanno incarnato il principio di Andy Warhol sul quarto d'ora di celebrità, che sono diventati 2 minuti e mezzo di celebrità perché i tempi televisivi sono un po' più serrati, però insomma migliaia di persone nel mondo, decine di migliaia direi, hanno potuto esibirsi in televisione, ognuno ha avuto la sua chance, questa almeno apparentemente la possiamo chiamare democrazia. Lascio a voi decidere quale di queste versioni vi sembra la più giusta. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo volare in alto, magari solo perché hanno saputo interpretare, anticipare i gusti, magari con un lieve livellamento verso il basso o verso la parte spietata che c'è in ognuno di noi. Fatto sta che alla fine non ne puoi neanche parlare male, perché essendo questi diventati miliardari faresti anche la figura di quello che invidia o di quello che rosica. E quindi noi raccontiamo e ci felicitiamo con Simon Cowell per il grande successo che ha avuto nella vita. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina o venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social, Facebook, Twitter e tutto il resto. Se volete, mi trovate. Ciao, a domani.